Sputnik on Radio. Moontalk, Chiara e Marta, 94,7, 96,250. Stasera parleremo di Sanremo. Wow! E diamo subito le coordinate per il blog, perché è importantissimo. www.moontalkradio.blogspot.com. E se invece volete scriverci, potete farlo su moontalkradio@gmail.com. Ok. Di cannone, ma che spari solo rose, però poi mi innamoro d'un ritornello scemo, perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole, sono tutte uguali, ma qualcuna di loro delle piccole ali, e con loro chissà magari voleremo, perché Sanremo è Sanremo. No! Questa era la sigla di Sanremo del 96. Perché Sanremo è Sanremo. Cantata da Rudy Neri dei Prefisso. Li conosci? No, okay. non li ricordo. Io sono una fanatica di Sanremo. Sì, lo so. E infatti avvisiamo tutti che quando posteremo questa puntata sul blog metteremo i nostri nomi accanto alle canzoni che abbiamo scelto, perché io e Marta siamo in totale disaccordo sulle canzoni che... insomma, abbiamo selezionato per questa puntata, e quindi poi dopo voi voterete chi ha fatto la scelta migliore di questi. Non ci sono dubbi. 50 anni, 60. Sì, sì, sì. Quest'anno fanno 60. Sì. Ok, quindi partiamo dall'inizio. E nel 1948 fu organizzato a La Capannina, storico locale berlinese, il primo festival canoro nazionale. L'iniziativa fu replicata anche l'anno seguente, ma nel 1950 fu cancellata per questioni economiche. Se ne interessò Pier Bussetti del Casinò di Sanremo, che insieme a Giulio Razzi mise a punto il regolamento del concorso che si tiene per la prima volta a Sanremo nel 1951. Nacque così il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Alcune fonti hanno rintracciato nel 1931 un'analoga iniziativa del comune Riverasco legata a canzoni napoletane. Comunque diciamo che il primo festival fu nel 1951 e la prima canzone a vincere è... Io mi rifiuto di dirlo. Nilla Pizzi con Grazie ai fiori. Quindi la prima edizione presentata da Nuzio Filogamo iniziò appunto il 29 gennaio del 1951 alle 22, prima di tre serate dal Salone delle Feste del Casinò. Il pubblico paga 500 lire a biglietto e assiste seduto al tavolino del bar con tanto di camerieri. E la televisione non era ancora nata, il festival va in onda alla radio sulla Rete Rossa. Ed infatti l'idea iniziale era di svolgere il festival su una nave a crociera, che viene poi eliminata come idea proprio perché non si sarebbe sentito bene alla radio. E le canzoni in gara sono 20 e a cantarle sono praticamente solo in tre. Sì, solo forse per qualche anno è stato poi così. Sì, sì. E le canzoni venderanno tantissimo, 80.000 copie, 36.000 solo la Pizzi, quindi non sono la sola. E diciamo che le case discografiche avevano sottovalutato l'avvenimento, tanto da stampare le prime copie soltanto 2 settimane dopo la fine del festival. Allora ci ascoltiamo il pezzone di Nilla Pizzi. Grazie dei fiori. Giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Pizzi con Grazie dei fiori. E grazie a Chiara per avercela fatta sentire. Questo romanticismo da salsa. Veramente ne sentivamo. Sì, sì. Invece un altro cantante che negli anni 50 partecipò per ben 5 edizioni al Festival di Sanremo è Natalino Otto. Natalino Otto inizia come cantante musicista nei locali della sua regione, la Liguria. Ma come accadrà poi ad altri suoi colleghi genovesi, la gavetta dovette farla emigrando. Nel suo caso si esibì durante i viaggi transatlantici che facevano la spalla tra l'Europa e il Nord America. Questa esperienza gli fece conoscere la musica d'oltreoceano e quindi anche i nuovi generi musicali jazz e swing. Nel 1935 fu scritturato da un'emittente radiofonica italo-americana di New York, pensate, Altro che Nilla. Rientrato in Italia nel 1937, Otto propose un repertorio innovativo fortemente ispirato alla musica americana del periodo, ma si dovette scontrare con la realtà italiana, dove ogni suggestione esterofila era vietata. Fu costretto quindi a cambiare tutti i titoli delle sue canzoni, che erano nati in inglese e dovettero essere tradotti tutti in italiano. E questo praticamente escluse Natalino Otto da tutti i passaggi radiofonici. Mi viene in mente Tu vuoi fare l'americano. Beh, vi facciamo sentire una di queste canzoni di Natalino Otto. In particolare vi faccio sentire la canzone del 1958, avevamo la stessa età che Natalino Otto cantò con Aurelio Fierro. Tu eri la più brava in geografia, tra i libri della mia malinconia. Conserva ancora il fiore che m'hai dato, quel giorno che mi avevano bocciato. Avevamo la stessa età, questo nessuno lo sa. Or non capisco perché hai 10 anni meno di me. Vedo passar quella lune, fiumi, città e meraviglie, però solo per me il tempo passò. Adesso taci, dammi 10 baci, uno per anno, se no racconterò. Avevamo la stessa età, solo il mio cuore lo sa. Oro 10 anni di più e tu profumi di gioventù. Avevamo la stessa età, la stessa età. Noi sognavamo ed eravamo uguali sui banchi delle classi ginnasiali. Ricordi, risolvevo il tuo problema in cambio d'una pasta con la crema. Adesso taci, dammi 10 baci, uno per anno, se no racconterò. Avevamo la stessa età, solo il mio cuore lo sa. Oro 10 anni di più e tu profumi di gioventù. Avevamo la stessa età, la stessa età. Questo era Natalino Otto, il re del ritmo anni 50. Wow, no, questa te la provo. Te la provo, Marta. Quindi questa può essere una collaborazione. No. Comunque l'anno dopo, quindi abbiamo parlato appunto del 58, no? Sì. Quindi l'anno dopo, la nona edizione del Festival di Sanremo si svolse dal 29 al 31 gennaio. I vincitori furono Domenico Modugno e Johnny Dorelli con la canzone Piove. Al secondo posto invece c'è Gino Latilla in coppia con Arturo Testa con la canzone che a me piace molto, Io sono il vento. Tu che mi guardi e sorridi, mi chiedi chi sei. Anima inquieta, mi dici, tu dunque lo sai. Tu puoi capirmi e capire vuol dir perdonare ed accettare per questo amore la verità. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé, che nella notte ti chiama, che pace non ha. Sono l'amore che non sente pietà. Io sono il vento, se t'accarezzo non devi fidarti di me. Io non conosco la legge che guida il mio cuore. Sono l'amore, la passione d'amore. Qualcosa c'è in me più forte di me. Sono l'aria che talora sospira e che al sol del mattino più dolce si fa. Sono la furia che improvvisa si adira e che va, fugge, va dove andrà non lo sa. Io sono il vento, sono la furia che passa e che porta con sé. Ho traversato il deserto cercando di te, t'amerò, era scritto così. Qualcosa c'è in me più forte di me. Io sono il vento, arrivata seconda alla nona edizione del Festival di Sanremo 1959. Chi vinse questa edizione? Domenico Modugno. E Domenico Modugno vinse il festival anche 7 anni più tardi con la canzone Dio come ti amo. Quindi siamo nel 1966. La canzone fu presentata in coppia con Gigliola Cinquetti e fu prima in classifica in Italia per solo una settimana, perché poi fu travolta dal successo di Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli. La conosci? Sì. Brava. Grazie. Modugno poi presentò questa canzone all'Eurofestival 1966, classificandosi però ultimo con 0 punti, inspiegabilmente. Sempre questa canzone, Dio come ti amo, ha avuto anche una trasposizione cinematografica in gergo chiamata Musicarello, con la regia di Miguel Iglesias, che vedeva come attori, fra gli altri, Carlo Croccolo, Carlo Taranto, Raimondo Vianello e Nino Taranto. Che bello l'Euro Trash. Perché? Vabbè, Enrique Iglesias. Ma che Enrique Iglesias? Miguel Iglesias. Ah, Miguel Iglesias. Ok. Va bene. Facciamo ascoltare Dio come ti amo di Domenico Modugno. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Dio, come ti amo, mi vien da piangere. La mia vita non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso il sole? Chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te? Dio, come ti amo. Così caro, un bene così vero, chi può fermare il fiume che corre verso il mare, le rondini nel cielo che vanno verso. Come ti amo, Dio, come ti amo. Dio, come ti amo, di Domenico Modugno, vincitore del Festival di Sanremo nel 1966. Quindi il numero dei cantanti si accrebbe nella seconda edizione e dalla terza edizione in avanti. Ciascuna delle canzoni in gara era eseguita con duplice interprete, duplice direzione orchestrale e duplice disco, con rarissime eccezioni. Questa formula viene esclusa con esclusione dal 1956 e perdurato fino all'edizione del 71. Dal 67 invece ciascun artista può concorrere soltanto con una canzone. Dal 55 inoltre l'evento sarà trasmesso in TV, perché fino al 55 sono in radio. E il 67, quindi l'anno successivo a Modugno, è un anno abbastanza caotico per il festival. A sole due settimane al via l'elenco dei partecipanti, Mina non è convinta della sua canzone, Modugno cambia ben 4 volte partner e poi ci sono vari artisti che insomma non si presentano, comunque c'è abbastanza confusione. Vi sono i primi ospiti internazionali, con Mick Jagger in sala per assistere all'esibizione di sua moglie Marianne Faithfull. È soprattutto però il festival segnato dalla tragica morte di Luigi Tenco. La notte, infatti, tra il 26 e il 27 gennaio, al termine della prima serata, Luigi Tenco si suicida nella stanza d'albergo. La sua Ciao amore ciao è stata eliminata e molti vedono in questa la ragione del suicidio. Non penso, ma comunque. Si parla di chiudere il festival e invece si va avanti. Soltanto Caterina Caselli si rifiuta di cantare e Claudio Villa si scusa con il pubblico se canterà peggio del solito. La manifestazione si conclude alla mezzanotte di domenica 28 gennaio. A mezzogiorno del giorno seguente il disco di Tenco è praticamente esaurito. E a solo un mese dal festival, Ciao Amore Ciao avrà venduto oltre 300.000 copie. Ascoltiamo Luigi Tenco con Ciao Amore Ciao. La solita strada, bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo, e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, non saper fare niente in un mondo che sa tutto e non avere un soldo nemmeno per tornare. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao, ciao amore, ciao di Luigi Tenco. Qualche anno dopo, nel 1969, a debuttare al Festival di Sanremo è Nada, allora solamente 15enne, con la canzone Ma che freddo fa in coppia con i Rox. Il singolo, dopo Sanremo, la spinge al primo posto di tutte le hit parade italiane, ma non solo. Il singolo esce infatti anche in Spagna, in Giappone e in altri paesi di tutto il mondo. La giovanissima Nada viene soprannominata il pulcino di gabbro. Se ti piace pulcino. Ti piace pulcino di gabbro? Boh, sì, beh, non sì. È male. Che domanda è? Vabbè. È bruttissimo, scusa, come soprannome. Allora, orribile. Abbiamo deciso che è orribile il pulcino di gabbro. Invece la canzone è bellissima. Facciamo sentire quindi Ma che freddo fa di Nada, okay. Del 1969. Inverno, il sole sta stanco a letto, presto se ne va. Non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che tornerà. Nada con Ma che freddo fa del 1969. Le edizioni del Festival di Sanremo degli anni 70 furono invece determinati da diversi eventi spiacevoli e di contestazione. Nell'edizione del 1972 lo sciopero dei cantanti. I giovani d'allora, o meglio, i loro gusti musicali furono diversi. L'indifferenza verso le gare canore fu sancita da generi musicali più impegnativi. Furono gli anni della televisione a colori e del dilagare nelle discoteche della febbre del sabato sera, sicuramente influenzati anche dalla cultura americana. Sì. E la cultura italiana quindi era in evoluzione e vigeva il femminismo. La crisi a Sanremo si fece sentire per diversi anni, il festival non era più l'evento nazionale, la televisione manifestò poco interesse, così fece anche il grande pubblico. Il decennio restò impresso come il più basso insignificante per la manifestazione canore di quegli anni. Nel 1977 ci fu il cambiamento di sede e si passa quindi dal Casinò Municipale al Teatro Ariston, che è dove tuttora avviene il Festival di Sanremo. E nel 1979 ci fu un grande evento con la presenza di star internazionali come Tina Turner e Kate Bush. Ovviamente si cercava quindi di attrarre il pubblico con appunto star internazionali, quindi americani. Erano gli anni bui comunque del festival. Il festival degli anni 70 però produsse grandi cantanti della canzone italiana come Lucio Dalla, e Mogol, Battisti, il Trionfo di Mina. Il 1970 vide la nascita del gruppo Ligure, i Ricchi e Poveri, dopo la loro partecipazione al festival del 70 e del 71, e diventano uno dei gruppi comunque più popolari d'Italia, no? Sì, sì. Il 1970 vince il festival Chi non lavora non fa l'amore, cantata da Adriano Celentano e Claudia Mori. Celentano dimentica le parole della canzone nella prima serata. Comunque la canzone che affronta il tema appunto degli scioperi in un periodo davvero bollente suscita numerose polemiche, tra cui quella di Sergio Endrigo, che la critica pubblicamente. Mina, che da tempo è in rotta con il festival, si sposa proprio nei giorni della manifestazione, rubando quindi grandi spazi sui giornali e TV. Molti dicono che appunto l'abbia fatta apposta, sì, ma non credo, a dispetto del festival. Comunque ci fu anche una minaccia di un attentato contro il vincitore o la vincitrice del festival, questo prima che si sapesse che Adriano e Claudia avrebbero vinto, e la polizia presidia il palco, quindi sono è un anno abbastanza complicato, pesante, sì, anche sì, questo. Sì. Andiamo ad ascoltare quindi la canzone che vince la manifestazione, Chi non lavora non fa l'amore, cantata questa volta da Claudia Mori. Seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata io gli grido che ha scioperato due giorni su tre. Coi soldi che mi dà non ce la faccio più ed ho deciso che faccio lo sciopero contro di lui. C'era lo sciopero anche dei tramvai. Arriva lì ma il dottore non c'è. E in sciopero anche lui, che gioco è? Ma come finirà? C'è il caos nella città. Non resisto senza amore. Questa era Claudia Mori con Chi non lavora non fa l'amore, un pezzo controverso non soltanto al Festival di Sanremo del 1970, ma anche qui a Mountoc. Sì, sì, sì. Vedremo chi vince, vedremo chi vince. A me piace tantissimo perché penso che sia anche molto così ironica di quegli anni. Vabbè. Comunque, vai. Comunque nello stesso anno arriva il Festival di Sanremo anche Patti Pravo con La spada nel cuore, in coppia con Little Tony, vincendo il premio della critica. Era uno sguardo d'amore, la spada nel cuore, e ci resterà. Sei bello in questo momento, più bello adesso che il vento ti allontana da me. Notte di coccola, notte di cuore che batte e fermo la mano. ti sei illuminato, è simpatia, non era vero, io sono tua, non era vero. Primavera sempre, fino a ieri i tuoi pensieri erano tutti per me. Vedo te che ridi, sento ancora l'eco, io che già Patti Pravo con La spada nel cuore. Gli anni Ottanta furono incisivi per il rilancio del Festival di Sanremo. In un certo senso si ritornò ad occuparsi della manifestazione. La sensazione che provarono gli addetti ai lavori fu proprio quella di uscire dal buio degli anni Settanta. Con un clima generale nel paese che fu uguale anche nella musica leggera, le persone reagirono col mettere da parte l'impegno politico, che forse era stato coercitivo, forse troppo impegnato e scomodo, si occuparono di più della propria persona, e poi l'evento passò alla televisione commerciale, che determinò una competizione insomma più forte. Tornarono anche i personaggi del festival, si produssero più spettacoli e si ritornò a parlare di nuovo di Sanremo e della canzone italiana. Un artista che negli anni Ottanta andò un paio di volte a Sanremo è Enzo Malepasso. Mm-hmm. Ricordato per lo stile melodico delle composizioni e per il timbro vocale molto simile a quello di Battisti, è passato come una meteora nel panorama degli cantautori italiani, anche se ha potuto esprimere le qualità proprio al Festival di Sanremo nel 1980, quando si classificò al secondo posto con il brano Ti voglio bene, che poi andremo anche a sentire. E partecipò poi anche all'edizione dell'anno successivo con la canzone Amore mio, però non si qualificò nemmeno in finale. Nel 76 ha avuto il primo grande successo come autore con 15 anni, con il testo scritto da Claudio Daiano e incisa dai vicini di casa. Successivamente si è dedicato soprattutto all'attività di produttore scrivendo per artisti quali Fiordaliso, Peppino Di Capri, Loretta Goggi. Io me lo ricordo, tutte cose Peppino che, Di Capri. Te lo ricordi? Sì, eh? Sì. Tutte cose che in futuro passeremo qui a Montauk. Non si sa mai, Marta. Infatti. E come produttore di Fiordaliso proprio, ha scritto anche uno dei maggiori successi discografici degli anni Ottanta, Non voglio mica la luna. E proprio alla fine degli anni Ottanta si è trasferito all'estero, lavorando in Messico, Spagna e Australia e producendo artisti di grande levatura, tanto da ricevere ben 8 dischi d'oro e uno di platino. Non trascurò comunque mai il mercato discografico italiano, per il quale ha prodotto ben 9 album per Nino D'Angelo, lo ringraziamo molto per questo. E dal 94 proprio lui a produrre, a lanciare Il nostro Gigi D'Alessio. Wow. Allora, ci ascoltiamo il primo pezzo con cui ha partecipato a Sanremo, insomma le passo, la canzone si chiama Ti voglio bene, ascoltiamola. Ho comprato un cielo al supermercato, con due sogni falsi l'ho pagato, ma il sacchetto era rotto e le stelle ad un tratto son volate via, formavano una scia che andava fino a casa tua. Dal momento in cui mi sono svegliato, più di mille volte t'ho sognato, accidenti. Sento qualcosa è cambiato nei riguardi tuoi. Per me tu cosa sei? Più o meno quella che vorrei. Ah, seppure faccio finta di niente, m'accorgo che ti voglio bene, che ci vuoi fare? Proprio a me doveva capitare. Ti voglio bene, non mi spavento, se questo è amore al 102%. Ti voglio bene e non importa in che dimensione, se anche da soli noi stiamo insieme. Ti voglio bene. Parcheggio della mia fantasia ha trovato posto un'emozione, ma è un amore che resta in divieto di sosta nella mente tua. Non lo portare via e stringiti più forte a me. Ah, legati a un filo fatto di niente, accorgo che ti voglio bene, che ci vuoi fare, ma proprio a me doveva capitare. Ti voglio bene, non mi spavento, se questo è amore al 102%. Ti voglio bene e non mi importa in che dimensione, se anche da solo stiamo insieme. Ti voglio bene, ti voglio bene. Insomma le passo con Ti voglio bene. Siamo nel 1980. Invece dal 1982 viene istituito il premio della critica Mia Martini, che prende il nome dalla prima a vincerlo, appunto Mia Martini, con E non finisce mica il cielo, composta da Fossati. Mattia Bazzar, Patti Pravo, Enrico Ruggeri, Fiorella Mannoia e recentemente Lisa sono alcuni ad aver vinto questo premio. Ok. Nel 1984 Baudo ha addirittura sei vallette. Elisabetta Giardini, Edi Angelillo, Gardini, Tiziana Pini e Iris. Ma non le conoscono, non lo so. Ero troppo piccola. E anche due bambine proprio. È il primo festival del playback totale e per la prima volta il festival viene trasmesso in diretta negli Stati Uniti grazie a una rete radiofonica di New York, la Inc. Durante la prima serata, oltre a mille metalmeccanici sfilano davanti al teatro Harrison per protestare contro la chiusura dello stabilimento Oscar Sinibaldi di Genova. Baudo gli offre diritto di parola, una rappresentazione composta di sei operai sale sul palco e spiega la ragione della protesta. Non intendiamo, dice praticamente che non intendono turbare o disturbare il festival, ma approfittare di una manifestazione così seguita. Vince la categoria Nuove Proposte nella sua prima edizione, Eros Ramazzotti con Terra Promessa, che non metteremo. La canzone invece vincitrice del festival sarà Ci Sarà, cantata da Albano e Romina Power, che anche non questa metteremo. Non metteremo. Tra gli ospiti comunque ci sono delle persone, insomma, di un certo spessore: Paul Young, Culture Club e Queen. Io vorrei mettere un'intervista della RAI, secondo me molto carina, appunto dei I Queen, fatta durante il soggiorno in Italia proprio per il festival. Secondo me è carina perché spiega, cioè dà molto, rende molto bene l'atmosfera dei tempi. I Queen poi cantarono in playback, mi pare. I Queen poi cantarono in playback Radio Gaga. Scandaloso. Ascoltiamo l'intervista ai Queen. Brian, secondo te quali sono le caratteristiche necessarie ad una canzone e ad un album di successo? Probabilmente hai posto la domanda alla persona sbagliata. Io veramente non lo so. Penso che la cosa eccitante di questo album sia che nessuno di noi sa cosa c'è dentro. È come quando ti svegli la mattina e non sai cosa indossare. Io veramente non ne ho la minima idea. Freddy, avete studiato qualcosa di particolare per la promozione di questo vostro nuovo album? Non so, qualcosa a proposito del look o di altri video? Faremo un altro video dopo Radio Gaga. Ne abbiamo pronti 4 o 5. Preferiamo fare video piuttosto che concerti, perché ci affascina questa nuova forma. Personalmente fare video mi sembra qualcosa di più eccitante, più diretto e più fresco. Il video di Radio Gaga è veramente molto bello. Quali sono i vostri interessi in questa forma di arte e promozione? Sì, il video è una forma di arte e di promozione. Il nostro primo video è stato Bohemian Rhapsody. Fare video è ovviamente molto importante per la presenza di MTV, una stazione televisiva americana che trasmette solo video musicali, ed anche in Europa c'è molta richiesta. Ora tutti fanno video. Il problema è trovare la giusta forma. A volte sei preoccupato e dici: mio Dio, che ci metterò dentro questo video? È comunque qualcosa da considerare attentamente. So it's an art form in a very young state, I think, and there's some good stuff, but mostly very ill-considered. Io penso che tu abbia una delle più belle voci del rock. Pensi davvero così? Sì, lo penso. Anch'io. Quali sono le direzioni verso cui muovi la tua voce? Io cerco di cantare in maniera naturale. Questa è la mia voce. Ci sono molti cantanti che la usano meglio di me. Aretha Franklin, ad esempio. O Rod Stewart. Mi piacerebbe cantare come i cantanti neri, ma io ho semplicemente una voce. Dagli anni 70 agli anni 80, come è cambiato il tuo look? Ma io ho 37 anni, con i capelli lunghi sembrerei stupido. Freddy, quali sono i vantaggi e gli svantaggi di essere l'uomo di punta, l'immagine di un gruppo come i Queen? È meraviglioso quando mi posso fare tutte le ragazze. Quindi questa era l'intervista ai Queen, fatta durante appunto la loro, insomma, la loro visita al Festival di Sanremo. Secondo me è molto, molto carino. Divertente. È molto, sì, carino da molto, sentire. Molto, molto. E lo stesso anno partecipa al festival anche Alberto Camerini. Le sonorità di Camerini sono in chiave punk, ispirati ai primi anni Ottanta. E è considerato l'Arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo, che richiamano le movenze stilizzate della maschera bergamasca e per la diretta citazione che ne ha fatto in uno dei suoi brani di maggior successo, Rock and Roll Robot, canzone presentata al Festival Bar nel 1981. Ah, vedi, c'era anche il Festival Bar in quegli anni. Sì, infatti, sì, sì. Molti poi passarono, infatti. Sì, sì, sì, anche, ad esempio anche Nada con Biancaneve o con quell'altra canzone molto famosa, Amore Disperato, no? Partecipò al Festival, al Festival Bar e lo vinse. Tornando a Camerini, Camerini partecipa quindi al festival nell'84 con La Bottega del Caffè. E niente, ce l'ascoltiamo. Ok. Camerini con La Bottega, sì, del Caffè, non, che cerca di fare un po' il brasiliano. No, ma sai che non è molto rappresentativa di quello che fa Camerini. Questa canzone per nulla è rappresentativa. No, ti piacerebbe Alberto Camerini. Va bene. Lui è poi tra l'altro brasiliano. Cioè, sì, no. è nato in Brasile, è vero. Sempre nell'84 partecipa al festival anche Garbo. Garbo è un grande esponente insieme a Fausto e a Diaframma e al primo Ruggeri, che ci siamo dimenticati di farvi sentire prima, ma che sì, recupereremo, ma che dobbiamo assolutamente recuperare. Sì, Garbo fu grande esponente assieme agli appena citati di quella che all'epoca venne chiamata la New Wave italiana, ispirata ad artisti internazionali come David Bowie, Brian Ferry, Japan, Brian Eno. Garbo debutta nell'81 con la EMI e con l'album A Berlino Va Bene, che contiene il noto singolo omonimo. Il brano venne accompagnato da un video presentato alla trasmissione Mr. Fantasy. La scelta del nome Garbo scaturisce da un episodio avvenuto in un ufficio anagrafico. Garbo, notando la presenza in elenco di diversi nominativi di cognome Garbo esatto, un cognome tipicamente veneto, decide che per il suo eventuale ingresso nel mondo della musica avrebbe utilizzato proprio questo pseudonimo. Quindi Garbo partecipa al Festival Sanremo nell'84 con la canzone Radio Clima, classificandosi nelle ultime posizioni, ma vincendo proprio il premio della critica in memoria di Saverio Rotondi, direttore della rivista Ciao 2001. Chissà cosa scrivevano in quegli anni di Ciao 2001. Sarei proprio curiosa di trovarlo, anzi poi Chiara lo troverà e lo posterà nel okay. blog. Adesso sono diventata bloggara. Anche lei. E ci ascoltiamo quindi Radio Clima di Garbo. Radio, mi canti la sera. Waiting for someone else. Forse qualcosa rimane. Waiting for someone else. Sempre io e te, cantami l'inverno che va, confondimi il giorno e la sera, ferma questa noia che va, poi mi perdo con te, cantami l'inverno che va, confondimi il giorno e la sera, ferma questa noia che va, poi mi perdo. Perdiamo sempre io e te, cantami l'inverno che va, confondimi il giorno e la sera, ferma questa noia che va, poi mi perdo con te, cantami l'inverno che va, confondimi il giorno e la sera, ferma questa noia che va, poi mi perdo. Questa era Garbo con una canzone molto attuale, secondo me. Sì, sì, no, bellissima. Tra l'altro la voce ricorda un po' quella di Francesco Bianconi dei Baustel. Sì. E quindi se avete appena acceso la radio, cercavate Moon Talk e siete un po' confusi, state tranquilli, questo è Moon Talk con Chiara e Marta. Il nostro omaggio a Sanremo. È il nostro omaggio a Sanremo che è iniziato ieri, tra l'altro, no? Sì. Quindi Moon Talk spinge Sanremo. Nazional Popolare. Nazional Popolare. Prima ci siamo però dimenticate di farvi sentire i Decibel. Sì. I Decibel sono un gruppo che piace ad entrambe. Che ho scelto io però. Sì, che troppo piace. Sì, sì. I Decibel nascono nel 77 in una cantina di Milano con il nome di Trifoglio. Sono Enrico Ruggeri, Pino Mancini, Roberto Turatti, Enrico Longhin e Silvio Capeccia. Dopo l'uscita di Capeccia il gruppo cambia genere, diventa punk e cambia quindi anche nome e diventano appunto i Decibel. Nel 78 incidono il loro primo 33 giri dal titolo Punk ed aprono i concerti italiani di Heartbreakers, XTC e Adam and the Ants. Ti rendi conto? No, tra l'altro mi ricordo il video con Enrico Ruggeri con i capelli biondi. Sì, sì, ma era sì, fighissimo. Era bellissimo, sì, lo zero sì, in quegli era molto anni. Punk, ma molto italiano. Lo faceva molto, molto bene. Molto, molto, anche a me piaceva molto. Registrano quindi diversi 33 giri fino a quando a poco prese forma l'idea di far partecipare i Decibel a Sanremo, cosa che all'inizio sembrò ai componenti del gruppo semplicemente assurda, ma che progressivamente venne accettata come un'idea provocatoria e una sfida divertente, anche perché si seppe che alla manifestazione avrebbe partecipato anche il gruppo, definito rivale dalla stampa, degli Schiantos. Quindi a gennaio del 1980 i Decibel iniziarono le qualificazioni per il Festival di Sanremo nella sezione giovani. Per quell'anno il regolamento prevedeva che dopo le qualificazioni i giovani e i big convergessero in un'unica categoria e che se la vedessero per il finale ad armi pari. Gli Schiantos caddero alle prime manche, mentre i Decibel passarono quasi tutte le selezioni, anzi... vennero presto adottati dal patron della manifestazione, che si era innamorato della canzone che portarono al festival, che si chiamava Contessa. Anche il look dandy della band, con quello di cui parlavi prima, proprio camicia bianca, cravattina sì. nera, ispirata anche gli occhiali. Sì, anche gli occhiali bianchi, servì allo scopo di fargli ottenere successo, in quanto era interpretato dai media come un atto di ripudio da un passato scellerato, un po' quello che è stato così, tipo i Beatles, no? Ma invece lo scopo... erano molto ironici. Sì, infatti non venivano proprio colti gli aspetti ironici e le citazioni del rock. Vi facciamo... la canzone è anche molto ironica, no? Assolutamente molto sì, assolutamente sì. Ve la facciamo sentire, Contessa dei Decibel. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pesare troppo coi tuoi sì. Che ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a chiaro prezzo la realtà. Molto carina. Sì, e quest'anno qui sai che canzone vinse? Vinse Toto Cotugno con Solo Noi. Però Contessa si classificò al quarto posto, non male. E comunque devo dire che magari ispirati da questa new wave italiana e avendo colto forse gli organizzatori questa ispirazione che andava da David Bowie a Brian Eno, all'edizione del 1987 infatti ci furono ospiti i Smiths che cioè, suonarono in playback. Scandaloso anche loro. Ask. Quindi ascoltiamo The Smiths con Ask. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Coyness is nice and coyness can stop you from saying all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Spending warm summer days indoors, writing frightening verse to a booktube girl in Luxembourg. Ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me if it comes. If it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, because if it's not love, then it's the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb, the bomb that will bring us together. If it's not love, then it's the bomb, then it's the bomb that will bring us together. So ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, ask me, oh. E quindi questi erano gli Smiths. Gli Smiths. Con Ask. Ask. Sì. Saltiamo proprio di brutto gli anni 90 perché abbiamo fatto un po' di ricerche e non abbiamo trovato niente di interessante, credeteci oppure proprio no. Proprio niente. No, l'unica cosa erano i Blur con... Che no, no, artisti stranieri molti. Sì, artisti stranieri molti. Molti. Però canzoni belle presentate al festival, quasi nessuna. No, no, veramente. Un decennio veramente terribile. E anche, anche negli anni italiana. 2000. Anni 2000, sì. No, infatti roba tipo Elisa. Vabbè. Cioè, vabbè, presentato da Carrà. C'erano ospiti tipo Eminem. Nel 2000? Sì. Sì. E quest'anno, no. Parliamo un po' di quest'anno? Parliamo un po' di quest'anno, io non so niente. No, so che è presente la Clerici. L'Antonellina. Sì. No, ho visto che, insomma, è anche abbastanza presa da questa... Ma... No, vedremo no, come andrà. A me la Clerici mi piace in realtà. A me non fa impazzire. È piaciuto l'anno scorso quando c'era Bonolis. E Sanremo quest'anno va dal 16 febbraio al 20 febbraio e la cosa, l'avvenimento più importante che è successo quest'anno è l'esclusione di Morgan. Sì, che avrebbe dovuto... far parte del festival con la canzone La Sera ed è invece stato escluso dal punto direttore di Rai 1 Mauro Mazza e Mauro Masi. dopo a causa sì. dell'intervista a Max in cui Morgan ha dichiarato di usare cocaina come antidepressivo. Il gruppo di Morgan, i Blue Vertigo, parteciparono a Sanremo nel 2001 con la canzone L'Assenzio. Sì. Credo classificando sedicesima. Esatto, ultimi, arrivarono proprio ultimi. Invece la canzone è molto, molto bella. Vince invece il festival quell'anno Luce di Elisa. Di Elisa. Beh, sì. È molto bella anche Luce di Elisa, anche se non... Vabbè, passiamoci non, sopra. No, no, è una canzone molto bella. Quindi finiamo questa puntata di Moon Talk dedicata a Sanremo con ascoltando L'Assenzio dei Blue Vertigo. E per ricordare Morgan in questi giorni, che poverino sarà a casa. Ma si vocifera che comparirà a Sanremo, non si sa in quale veste, ma vabbè, vedremo. E la prossima puntata? J. Dilla. Evviva. Marta contentissima. Sì, sarà molto hip hop e renderemo omaggio a J. Dilla, che tra l'altro è morto quattro anni fa, nel 2006, il 13 febbraio. Quindi okay, rendiamo omaggio. E la puntata di Sanremo, quella che state sentendo ora, la troverete nel nostro blog www.moontalkradio.blogspot.com da domani mattina. Sì, votateci, votatemi, anzi, Marta, no. Cioè, io capisco che alcune canzoni vi sono piaciute, però votate me. E poi, se volete scriverci, potete farlo anche per proporre qualche puntata, visto che ogni tanto fatichiamo. Quindi scriveteci su Gmail a moontalkradio@gmail.com. Ci sentiamo mercoledì prossimo con la puntata appunto dedicata a J. Dilla, e nel frattempo anche seguite il nostro blog, perché ogni tanto mettiamo su qualche post così in cui diamo qualche consiglio. Ok. Ciao. Ciao, alla prossima. Sì. Vestirsi, la censura, l'oppio, la religione, il lego, l'assenzio.